uno dovrebbe pensare a noi stessi. Ognuno vomitare i nostri affetti. Nessuno si cura delle proprie incertezze. Inglesi, nozze con sporche carrozze. Bersani, mi hai proprio rotto i coglioni. Fascista, soltanto un po' di sinistra. Berlusconi, siamo tutti coglioni. La figa di certo non è di sinistra. Sogno bunga bunga in economia pianificata e una destra meno interventista. Sogno bunga bunga in economia pianificata e una destra meno interventista. Era meglio Cicciolina e il partito dell'amore. Cicciolina è il partito dell'amore, almeno lei si faceva i cazzi suoi. Qualcuno dovrebbe pensare a noi stessi. Ognuno vomitare i propri difetti. Nessuno si cura delle proprie incertezze. Sporche carrozze. Sogno bunga bunga in economia pianificata e una destra meno interventista. Sogno bunga bunga in economia pianificata e una destra meno interventista. Cosa me ne frega di me? Cosa me ne frega di me? Cosa me ne frega?